Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno. In questi giorni, oggi, domani, a Milano si tiene la prima edizione di Change Up, scelgo io. Un evento che è un punto di incontro tra aziende e pubblico, quindi chiunque vuole può andare in via Tortona 27 a Milano, incontro, dicevo, nel settore delle produzioni etiche, ecologiche e sostenibili. Ecco, questa cosa delle produzioni etiche ha colto la mia, il mio interesse, la mia curiosità, e non ne dubitavo che all'interno proprio delle riflessioni sulla produzione etica troviamo il gruppo cooperativo Goel, che è già stato con le sue iniziative ospite della nostra trasmissione. Il gruppo cooperativo Goel quindi porterà la propria esperienza in tema di impresa sociale. Ricordiamo che a questo gruppo fanno anche capo delle produzioni che sono delle filiere di legalità, proprio delle filiere di legalità, cioè i tessuti, tutta la filiera dal filo proprio alla confezione, al confezionamento e alla vendita, seguono un filone di legalità. Allora, di questo noi parliamo nuovamente con un gradito ospite, che è anche un imprenditore, ovviamente oltre ad essere presidente del consorzio Goel, Vincenzo Linarello. Buongiorno Linarello. Buongiorno a voi. Allora, di che cosa parlerete oggi e domani, in questi giorni? Che cosa andrete a dire a chi visiterà i vostri momenti di incontro? Ma come Goel abbiamo scelto un pochino di sostenere e accompagnare questa nuova iniziativa di Change Up. Siamo infatti, diciamo, main partner di questa iniziativa, proprio perché era perfettamente in linea con l'idea di etica efficace che noi stiamo tentando di portare avanti, cioè l'idea di dire basta con l'etica povera, masochista, cioè dimostriamo che l'etica può essere un'alternativa forte al proprio contrario e può addirittura convenire, no? Come spesso diciamo anche che la legalità conviene, cioè, però questo è tutto da dimostrare, la nostra certo. presenza lì in qualche ecco, ma modo... voi appunto come lo dimostrate? Ce lo racconti Linarello? Sì, lo dimostriamo in diversi modi e su diversi ambiti. Intanto abbiamo questa produzione agricola di Goel Bio, dove stiamo facendo dei prodotti di eccellenza biologici a dei prezzi anche competitivi e di altissima qualità, che in qualche modo contiamo di fare, abbiano la capacità anche di fare concorrenza all'economia profit. Certo. Un'altra iniziativa molto simbolica è quella di Cangiari, questo brand che abbiamo messo su. Quella a cui facevo riferimento prima. Esatto, nel segmento alto della moda, quindi già di per sé un segmento molto difficile, molto esigente, di altissima qualità. Ecco, ma come sta andando questa sorta di sperimentazione nella produzione etica e di legalità nell'alta gamma della moda? Ma è sicuramente un avvio faticoso anche per il periodo storico di crisi che certo. stiamo avendo, ma devo dire che stiamo riuscendo piano piano a segnare traguardi importanti. Adesso stiamo entrando nelle boutique più prestigiose d'Italia, stiamo cominciando a farci conoscere all'estero, abbiamo aperto il nostro e-commerce all'indirizzo cangiari.com, per cui ci siamo fatti anche un nostro canale di vendita diretta. Stiamo, insomma, anche... legalità fa anche rima con moda, via. Assolutamente, ma soprattutto con moda di altissima qualità, con rifiniture sartoriali, con tessuti biologici, cioè l'idea di fondo è non comprate questo prodotto perché siccome proviene da mondi solidali, anche se è bruttino, fatevelo piacere. Certo. Comprate questo prodotto innanzitutto perché è migliore di altri, ed è migliore di altri perché è etico, cioè è un ribaltamento del paradigma. Assolutamente sì. E una curiosità, alcuni circuiti anche di grande distribuzione immettono appunto sul mercato dei prodotti che sono frutto di terre, ad esempio esempio strappate alle mafie, quindi sono frutto di legalità, spaghetti, marmellate, via dicendo. Voi come entrate nella grande distribuzione o nella distribuzione? Ma noi rispetto a questo tipo di scelta della grande distribuzione ancora francamente non ci siamo posizionati e non abbiamo fatto una scelta diciamo chiara e definitiva. Per adesso tentiamo di privilegiare le filiere più corte possibili. Certo, la certo. La distribuzione certamente. Quindi diciamo così a chilometri zero, insomma, sono prodotti che si possono trovare nella zona in cui vengono prodotti, ho capito, benissimo. Poi cerchiamo anche di tenerci anche alla legalità dei canali distributivi e siccome sappiamo anche che nei nostri territori ci sono molte realtà su cui pendono grandi dubbi, grandi perplessità. Assolutamente, assolutamente l'autotrasporto è uno dei buchi neri. Non abbiamo francamente ancora fatto nulla se prima non siamo realmente sicuri. Certo, questo vi fa solo onore. Grazie a Vincenzo Linarello, presidente del Consorzio Goel, a Fabio Cantadori in regia e a Laura Faggin in studio. Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.